dopo cerca di saltarsi, però con i maschi non va molto d'accordo, va d'accordo con i barboncini perché sono bravi, con i cani piccoli, tipo cuccioletti, roba così, allora si gioca, però con certi cani, tipo i cani da caccia, non li può vedere. No, vabbè, lui lascia perdere tutti i tipi di cani di razza, addirittura dove vado io lì, ripeto, lì a Bosa, c'è una lana che è di uno dei custodi, no, ma la lana è enorme, lo sente abbagliare, ma ti credi che lo tengo, se non lo tengo si azzuffa la grande, però è tutto. Però se quello là non abbaglia, allora passa lì. Poi c'è il cane tipo quello di Claudio che gli mostra le ciabatte, vero Claudio? C'è a me il cane che mi piace di più, qual è? E qual è? Il dog del Bordeaux, è un cane che mi è sempre piaciuto. Magna che se ti cani, perché mangia un bel di carne, ma è un bel cane, veramente bello, tutto a pieghe, bello. Ma non ce l'ho neanche presente, lascia vedere, come si chiama? Dog De Bordeaux, si scrive Bordeaux. Dog de Bordeaux. Sì, molto bello, sì, bello, bello. Hai visto? Sì, l'ho visto, la maggior parte sono marroncini belli, dai, diciamo. Sono bellissimi. Ne aveva due, Davide, quello che c'aveva il negozio di animali, mi hanno servito, ce l'ha presente, ce l'aveva dietro la cassa. Sì che stavi dietro la cassa, ok, se andavi a parlare dietro, si subito ringhiava, mamma mia. Sono da dimenticare. E poi sono anche una dei molussi di grossa taglia, anche no? Sì, sono di grossa taglia, sono molussoidi. Ma sai che come vale? Naturalmente non sono cani da tenere in casa, ecco, gli dici, bisogna avere il posto. Eccomi, mi metto radio per comodità, Ho detto, naturalmente non sono cani da tenere a casa, tipo lì, ci vuole il posto. Quel mio amico è in campagna, li tiene liberi, capito? Aspetta che ti sento male, già, aspetta un attimino, non vorrei che sono io o meno, aspetta un attimino, provo a parlare. Come mi senti? No, ti sento, però fa un passaggio più lungo. Sicuramente, cioè, che apparecchio stai usando? Il coso, ma come si chiama? Lincoln. No, risolto. Perché Lincoln c'ha la frequenza più stretta, capito? E praticamente certi apparecchi non li sopporta. No, vabbè, dovuto buttare i pin. Capo, adesso c'era qualcuno che ha parlato e sembrava fuori frequente. No, prova. Avanti se c'è qualcuno. Chi era? No, non ti ascoltiamo bene, io perlomeno non ti ascolto bene, sempre fuori frequente. Ho capito che sei caro da Porto Torres, però non si capisce cosa dici quando... Ascolti, no? Io non lo capisco. E manco io. Sicuramente sei in FM, guarda. Prova a vedere che non c'è in FM o che abbia il cane per spostare. Adesso sì, benissimo. Ora sì. Ciao Mario, ciao, ben sentito. No, adesso ti ascolto benissimo. Ottima radio. No, prima sembravi fuori frequenza, sembravi che fossi in FM addirittura. Ma dai, è Tino Muscolo comunque, te lo dico io. Ti volevo dire una cosa, che alcuni apparecchi radioamatoriali per andare in AM hanno bisogno di un filtro, e magari quello è così, capito? Ha bisogno del filtro per l'AM. Bene, ciao Mario di Porto Torres, sì, ti ascolto bene, con quanto non riuscivo a capirti, comunque. Però buonasera, Tino Muscolo da questa parte. Tino Muscolo, Tango India, November Oscar. Aspetta, scusa Tino, guarda Tino, si è cambiata la modulazione, se è più a tuo favore, diciamo. Capo, dai, va bene, posso aumentare un pochino di carrer, ma basta, niente di più. La mia situazione è questa, se ti metto l'altro magari aumento un pochino, però mi hai detto che la modulazione non è a tuo piacere. Un po' più bassa ti dovresti mettere la radio. meglio, magari è più chiaro. Ma quale è questa? Sì, appena più bassa, io pensavo che fossi io perché sono vicino, capito? Riesco a trovare un bel fuoco. Abbasso, aspetta, guarda, ora. Vedi un pochino se è migliorato ancora. E adesso è migliore, dai, lasciala così. Avanti Mario, meglio lo segno. Ok Mario, dai, ho cambiato radio, non so se ha migliorato o meno, guarda un pochino se riesci a capirmi un po' più all'altra, cercando di superare un po' il problema. Mi è sembrato che è entrato Roberto, tu sì, no, boh, ho sentito qualche cosa sopra modulazione, cosa stava parlando mai, mi sembrava Roberto. Boh, non lo so, Mario, posso aumentare un po' il mic, se vuoi, e ho aumentato un cc il mic, quindi magari va oltre la soglia. Ho aumentato un pochino il mic, io sto utilizzando un Mac R 5005, qua sto osservando con un segnale 7-8, picchi positivi, quindi la radio Super 5 va benissimo. Adesso ti rilancio a Gianni, così ti dà il controllo anche lui, ok? Vai Gianni. Prova Mario, vai! Qua arrivi 8 e mezzo radio 5, dai. Sì Mario, qua fai 7-8, diciamo che io sono zona Latte Dolce, non so se è presente, periferia, mentre invece Gianni un pochino più lontano di me, ma siamo diciamo su per giù vicino. Ci puoi contraccambiare il segnale, Mario? Cappa, e a me come mi ascolti Mario? Adesso ti do pure a colorare, guardi, perché mi mette quel secco che mi piace. Cosa dici? Ho detto, l'ho sentito dell'eco. Adesso ho messo un goccino di eco anche io, Mario. Vediamo se aumentando la colorazione. Mannaggia, che va bene, accetto la sconfitta da Gianni perché conosco cosa io sto usando. Questo qui è l'eco dell'apparecchio del microfono. Saturo. Avanti là, c'è qualcuno che ha detto un attimo, avanti. Oh, sto sognando, ci sei sentito tutto? Ma sì, io devo un attimino a guardare. Sì, hai ragione Marco, Sì, sono aiutato Mario, quindi sì, è comprensibile, è un po' compresso appena lo so che fa questa cosa qua, però volevo sapere se con l'eco cambiava qualcosina, perché mi hanno detto di regolarlo così, non so se a te va bene, io non sono tanto per l'eco, ma l'ho messo giusto per giocare con Gianni. Però abbassa l'eco ti, perché si accavalcano le parole una con l'altra, ti sorpassa la parola che dici dopo. Bene, dai, io adesso ho tolto l'eco perché sinceramente lo uso così per gioco. Vai Gianni. Ed esci meglio così che con l'eco, esci molto meglio. L'eco un po' non mi piace quel tipo di eco che c'hai, capito? Si sovracavallano le parole. Già, tieni presente che non è colto questo, questo è un HR 5005, l'eco è il suo originale e quindi non è stato né modificato né niente, questa è una radio un po' così, è stata modificata un pochino la modulazione, il watt, niente di che. Sì, ma quello lì magari vorrebbe solo regolato, capito? Regolata la, se si può, non lo so, la velocità dell'eco e farlo andare un po' più lento. Va bene, comunque l'importante è che sono riuscito a soddisfare le esigenze di Mario per quanto riguarda l'ascolto, ecco. Dimmi, a 100 secondi. Sì, già. Sì, riprendo io che Gianni ha mollato un attimino, si è controllato un attimino. Mario, se mi posso permettere, ti faccio una domanda. Che apparato, quello grande intendo, se si può dire, utilizzi? Tu sei radioamatore, sei una cosa sì. Sì, adesso hai una sorta di thrill come beat, quindi c'è. Sì, l'ho visto, lo conosco la radio, conosco. Io, vabbè, un po' di radio le conosco perché un amico che è radioamatore, spesso e volentieri sono a casa sua, quindi niente, conosco un po' di radio. No, perché ti ho sentito poc'anzi, ho provato con quella di Naem, sicuramente non è la più adatta, però diciamo che si è andato molto meglio le Kenwood anche altre radio, però con la Ghetto un po' meno. Cappa, sono qua, dai Mari. Cioè, mi sono alzato perché avevo fatto la mia compagna col cane, lo stavo pulendo. Scusate un attimino, mi devo sentire un attimino io, sennò mi lasciano senza acqua i ragazzi che devo accendere lo scaldabagno, ho attaccato il posto, quindi ho il problema che devo staccare una cosa per poter attaccare l'altra. Arrivo subito, vai Gianni. Ehi, arriva. Hai già mangiato, Etti? No, no. Io non me ne accorgo che era così tardi, pensavo che fossero le 8. Scappa. Avanti, Mario. Oggi c'è scherzi a parte, mi pare. Che alle 5, se non è finito, se non era l'ultima puntata la scorsa settimana, perché era quasi alla fine, non lo so se era l'ultima puntata o la penultima. Sono la mia bandetta, e dove c'era la nostra di Pini, da Finanza, ce l'ho presa. Cappa, però io abito alla fine, dietro via Baldetta abito. Sono qua. Lo sai cos'è? Per l'incontrare bisognerebbe fare le rimpatriate, ma quando vuoi fare le rimpatriate ci sono molti che sono morti, ti viene la tristezza, quello che si è separato, l'altro che è morto, insomma, come è successo a mia sorella che ha voluto fare la rimpatriata, l'hanno fatta, però molti compagni di scuola sono morti. Sono di nuovo qua. Mario, ti faccio una domanda, visto che tu, ho sentito che hai abitato in quella zona lì, hai conosciuto anche Totano 2 per caso? Se hai conosciuto per caso Totano 2, Italo? No, Mario, qui vi facciamo un testino. Mario, io li vedo ogni tanto i miei compagni di scuola, qualcuno so che è morto, sì. Ogni tanto li vedo, seguo vedere le fiere, oppure quando andavo a Città Mercato li ritrovavo lì, dopo tanti anni, persone anche che non vedevo da 20 anni, ho trovato, rifigurati, e ci siamo riconosciuti, capito? E in questi posti qua li trovi, capito? Dove c'è molto affollamento di gente, allora riesci a trovarli. Andare, Tino, avanti, a te i bicchieri. Ok, no, ho fatto quella domanda a Mario perché mi ha detto che abitava lì, magari lo conosceva, avesse considerato che era di zona, era giusto una domanda così per vedere se aveva frequentato con lui o meno. Io però, ricordandomi bene, lui abitava in Via Prati proprio, in Via Prati di fronte alla Pinetta. In via Prati di fronte alla Pinetta. Ma non mi ascolti? Un momento? Se hai frequentato la Sacro Cuore, la numero 6, anche io ho frequentato lì, magari lo stesso anno che c'ero io, boh. Ah, non mi dire che anno è perché non me lo ricordo, perché sono passati troppi anni. Allora, io sono del 59. Io del 70. Stai parlando già, tutti i micidesi. Capo, ma c'è, così sento. Buonasera a tutti, dai. Se siete entrati in greco avete fatto il vasero di campo. Avanti a 1-1, Luca. Ciao, ciao, no, con chi stai parlando che è basso basso qua? Sto parlando con Mario di Porto Torres. Non so se mi ascolta, è basso qua. A te ti hanno arrestato, ti hanno liberato oggi, vero? Ciao Luca. Sì, per carità, va. E quella che aveva passato i sicelli. Vediamo un po' se mi ascolta. Mi ascolti Porto Torres? Ok, anche tu sei bassissimo qua. Segnale, vabbè Gianni, per Porto Torres è positivo. È un po' negativo, dipende dalla zona, dai. Comunque da me sei radio 1, 1 e mezzo, non di più. segnale 2. Avanti, lo so, Tino, se lo ascolti tu. Sì, io Mario lo ascolto 7-8, te l'ho già detto, va bene, come va. È così. Mario è un amico che al monte stesso, ti ascolta basso, però Mario ti sentito. E ce l'ha Claudio, avanti Claudio. No, tu ci sei un numero di anni, eh. Ehi, sì, Mario. Luca rimane più, diciamo, coperto dai palazzi, capito? Probabilmente è quello. A me Luca mi arriva, Mario mi arriva a 8:30, la radio è 5, buono. Ehi, ehi, vabbè, dai. Riprende già che sono appena arrivato a casa, adesso mi devo sistemare la roba. Ho fatto un po' di roba e mamma mi ha tutta buttata sopra il letto, ma la devo sistemare dentro il mobile. Ehi, ehi, fai, fai. C'è grande sì. Avanti. Ehi, dai, anche io mi devo lasciare, causa preparazione al rancio qua in casa, quindi devo mollare. Mario, mi ha fatto piacere ascoltarti, dai, spero che ci sarà un'altra occasione in maniera un po' più dolce, più pulita, diciamo, perché anche io ho un po' di problemi, però già ti ascolto bene. Ti lancio il mic a te, Mario, che ascolto i saluti per la lunga. Calma Mario, dai, ti saluto cordialmente, grazie per il QSO, mi ha fatto piacere. Saluto anche tutti quelli che ci sono all'ascolto, Luca, Claudio, Tino, che è andato via, e tutti gli altri amici che sono all'ascolto. Dai, faccio quelli anche io, vi saluto tutti cordialmente, vado a guardarmi la TV. Ci sentiamo, ciao. Ciao, ciao. No Gianni, sono ancora qua, io aspetto i saluti, poi chiudo. Ora definitivo, quelli da parte mia hanno lasciato acceso e poi se capita già riprendo più tardi. Ciao a tutti, ciao ciao. Ciao ciao Tino, buona carica. Ehi, ciao Tino, ciao Mario, ciao Gianni, alla prossima. Allora, anche io sono un po' stanco, eh. Io sono andato anche al mare, mi sono, non dico bruciato, ma un po' abbronzato in faccia. E sta molto bella, l'acqua è una ghiacciata, va buona, alla prossima, ciao. Ciao Luca, San Sebastiano, ieri era aperto uno. Sabato e domenica, dalle 9 alle 17. E si pagava 3 euro a persona. Io non ho pagato nulla. Sì, ma tutta sera, se io dovevo tenere con il povero. Sì, ma infatti. E comunque almeno l'hai visto, dai, com'era. Anche io ho questa curiosità e me l'ho tolta anni fa. Ho fatto le fotografie, tutte le fotografie anche dei disegni che hanno fatto. Dimmi se che mi disegni. No, quelli lì purtroppo non li avevo fatti vedere perché erano chiuse. Cioè poi non si poteva passare. Mi hanno fatto vedere 12 celle. E il lavatoio, quella roba lì, fatto vedere. Come? Il lavatoio dove andavano a prendere l'ora di aria, eccetera. Ve l'hanno fatto vedere dove giocavano a biliardino. No, no, no. E allora ve l'hanno fatto vedere poco, io ho visto tutto. C'era il lavatoio, che c'erano ancora tutte le cose come le hanno lasciate. E poi giù ci hanno fatto vedere una sala dove si ricreava, che c'era il biliardino, eccetera, eccetera. Quella cella è un bel piccolo, è minimo. Cioè, ma cosa facciamo a stare lì dentro? Mamma mia, cosa brutta. Cosa brutta veramente, eh? E poi vanno in cella, se uno va in bagno, lo sentono loro tutti, basta di dare. Tutto a vista. Però sai cos'è? Chi sbaglia paga. Vabbè. Lo so, cioè ci sono anche innocenti che pagano lo stesso. Già, no, le prove pure, non è che uno lo buttano dentro così. Cioè sono stati innocenti, ma li hanno pagati pure, sì, sono fatto la galera, ma comunque. Poi ci vogliono sempre le prove ogni cosa, che se non è quelle è un casino, capito? Sono un bel stacco, sono, vai qua, vai là, la piugana. Poi abbiamo fatto da lì, poi siamo andati a casa, siamo fatto un paio di panni e poi siamo andati al mare. E siamo stati un po' al mare, poi siamo andati alla rotta, siamo mangiato un gelato, poi da lì siamo andati in campagna dalla mamma di Marina. Siamo stati un po' giù, a chiacchierare con i genitori. E poi a casa, lavati, adesso io sono a casa della mamma. E domani deve venire i muratori per controllare il bagno. Casino va. Sempre chi fa. Gente, giornata frenetica, ma cosa l'ho curata? Beh, almeno è stata una giornata piena. Andare, è fatto bene. Tu che lo puoi fare, fallo. facevo prima, adesso un po' mi sono fermato, ma già mi auguro di ricominciare di nuovo. Già lo so, è già andato molto bene, la domani, insomma ci sono i muratori, poi questa settimana c'ho allora, il dentista io, e la prossima settimana devo portare a mamma per fare una visita dal pneumologo. Poi a novembre c'ho un'altra visita io dall'otorino, un casino, come di fare mille cose. Poi vabbè, devo andare a fare dei lavoretti anche, un lavoretto che devo finire, un casino. E io si fa però quasi quasi tutto, ci vuole più a pensarlo che a farlo, a tutti i dì passano le cose, anche io sono così, mi assillo, però poi faccio tutto. E lo so già, cosa vuoi fare? Fa bisogna fare le cose, se non le fai e peggio prenderai in come te possa, ma capite, bisogna farle. Siamo qua, poi quando ci saremo più no, non le faremo più, le faranno gli altri al posto nostro. E speriamo sia più lontano possibile. E ciao, ci sentiamo, buona serata. Ciao Gianni, a te, ciao a tutti.